Storie italiane. Il tocco del re Mida. Questa è la storia del re Mida. Molti secoli fa c'era un bellissimo regno, governato da uno straordinario re di nome Mida. La leggenda narra che possedeva così tanto oro da poter comprare un'intera città. Amava molto il suo oro, ma mai nessuno è riuscito a vedere l'oro che possedeva. Il popolo si chiedeva sempre dove si trovasse il posto dove il re nascondeva tutto quell'oro. Dove pensi che il nostro re conservi così tanto oro? Non ne ho idea! Come si può possedere così tanto oro e poi non mostrarlo mai? La verità era che il re Mida teneva il suo oro prezioso rinchiuso nelle buie segrete. Il re si recava in quel luogo tutti i giorni per contare i suoi numerosi gioielli e monete d'oro. La regina si divertiva e spesso scherzava su questa situazione. Caro, non contare ogni giorno il tuo prezioso oro. Contandolo non diminuisce. Non devi mai scherzare su questo. Non sai quanto sia inestimabile il valore dell'oro. Guarda com'è bella la collana d'oro che indossi. Non è magnifica? Guarda come scintilla. È molto bella, sì, ma non importa quanto sia inestimabile. Non può comprare tutta la felicità. Può comprare tutta la felicità del mondo. Tesoro, tu non lo capisci. Tu non troverai mai nessun posto più bello di questo. La regina non era d'accordo, ma sapeva che non aveva senso discutere con suo marito il re. L'amore del sovrano per il suo oro aumentava di giorno in giorno. Lo amava così tanto che chiamò la sua amata figlia Marigold. Marigold era affezionata a suo padre. Era piena di vita e vedeva la bellezza nelle cose più piccole con umiltà. Spesso chiacchierava con il suo amato padre. Padre, vieni a vedere quanto sono belli i fiori. È una giornata così bella. Guarda come brillano le gocce di rugiada sull'erba. Figlia mia, non saranno mai brillanti più dell'oro. Non ti capisco, cara. Vai a giocare da sola. Proprio come sua madre, Marigold non capiva come l'oro potesse essere bello più dei fiori. Con il passare dei giorni, il re Mida iniziò a passare sempre più tempo chiuso nelle segrete, contando l'oro più e più volte. Pochi giorni dopo, la guardia reale portò uno strano uomo all'interno del palazzo per avere udienza con il re. L'uomo era vestito con abiti semplici. Il re notò che l'uomo non portava sandali ai piedi. Dimmi, chi è quest'uomo? Vostra Altezza, l'ho trovato che vagava per le strade. Dice che si è perso e non ha un posto dove stare. Devi provenire da una terra molto lontana. Ti sei perso? Organizzate il suo soggiorno. Fino a quando non troveremo la sua casa, sarà nostro ospite. Con il passare dei giorni, il re venne a sapere che l'uomo in realtà era un sileno. Quello che non sapeva è che il sileno era un caro amico del dio della foresta. Iniziarono i preparativi per la permanenza del sileno. Gli fu dato un trattamento regale e provvidero a tutto ciò che egli richiedeva. In poche settimane, i soldati trovarono la casa del misterioso uomo. Era giunto il tempo per il sileno di tornare a casa. La notte seguente, il re era seduto nelle segrete a contare il suo oro, ma all'improvviso... Che cosa? Oh cielo! E tu chi sei? Dimmi perché sei qui? Io sono il dio della foresta, re Mida. Come fai a sapere il mio nome? Sei qui per rubare il mio oro? Dimmi, cosa ci faccio con l'oro? È solo uno spreco. Sono qui per ringraziarti. Ringraziarmi? E per cosa? Il sileno che hai ospitato è mio caro amico. So quanto bene gli hai fatto e ti sei preso cura di lui. Sono impressionato dalla tua ospitalità. Sono venuto qui per realizzare qualsiasi desiderio. Dimmi, cosa desideri di più? Mida non poté credere alle sue orecchie. Poteva chiedere qualsiasi cosa. Sapeva già quello che desiderava. Voglio una nave piena d'oro! No! Una casa piena d'oro! No, non è abbastanza, aspetta! So cosa potrebbe rendermi felice! Dammi un potere magico! Desidero che tutto ciò che io tocco si trasformi in oro puro! Realizzerò il tuo desiderio come promesso! Non appena il sole sorgerà domani, tutto ciò che toccherai si trasformerà in oro puro! Ma ricorda, caro re, non ti renderà felice. L'oro non può comprare la felicità. Tu non puoi capire il vero valore dell'oro. Domani io sarò l'uomo più ricco e più felice della terra. Mida non riuscì a dormire quella notte. Aspettava con tanta impazienza la mattina seguente. Infine il mattino giunse. Mida era entusiasta di provare il suo tocco magico e dorato. Mi farebbe molto comodo dormire sul letto ricoperto tutto d'oro. Chi al mondo ha una fortuna del genere? Mida continuò a toccare tutto ciò che riuscì a trovare. Non devo più nascondere il mio oro. Ho un'idea! Esco e farò risplendere l'intero palazzo! Mida percorse i corridoi, toccando ogni cosa sul suo cammino. Andò persino nel giardino e trasformò tutti gli alberi e le piante in oro. Oh, sono così stanco oggi! Ho camminato molto! Ho ancora l'intero regno da trasformare in magnifico oro! Devo organizzare una festa nel mio regno e mostrare a tutti il mio tocco magico e dorato! Ma adesso ho fame! Voglio mangiare qualcosa! C'era della frutta, del pesce, della carne e ogni genere di prelibatezza a disposizione sul tavolo del re. Oh, che meraviglia! Questo sembra molto delizioso! Che cosa? No! Dov'è la mia acqua? Sono molto assetato! Oh! Ma che sta succedendo? Il re Mida era scioccato e spaventato. Cominciò lentamente a toccare tutto ciò che era sul tavolo. Guardò inorridito mentre tutto diventava oro puro davanti ai suoi occhi. Adesso che cosa mangerò? Ho tanta sete! Che cosa berrò? Non posso mangiare e bere oro! Il più ricco re della terra così morirà di fame! Il re era molto triste. Rimase seduta a guardare il cibo che non gli era più di alcuna utilità. Proprio allora, sua figlia entrò correndo dal giardino. Padre! E prima che il re Mida potesse pensare... No! Marigold! Marigold si trasformò in una piccola e splendente statua ricoperta di oro puro. Bella, ma senza vita. Non respirava. Non si muoveva. Il re Mida era disperato. La sua amata figlia non era più con lui. Oh, no! Che cosa ho fatto? Oh, Marigold! Ma perché non mi sento tanto felice? Oh, Marigold, la mia bellissima piccola figlia! Oh, dimmi qualcosa! Il re aveva le lacrime agli occhi. Corse verso le segrete disperatamente e gridò aiuto. Oh, re Mida! Qual è il tuo problema? Perché un'aria così triste? Sono passate solo poche ore dal tuo dono speciale. Hai bisogno di un altro potere? Dio! Ti prego, invoco il tuo perdono. A che serve questa benedizione se toglie la vita alla mia amata figlia? A cosa mi serve il cibo fatto tutto d'oro? Non posso mangiarlo. A cosa mi serve l'acqua fatta d'oro? Non posso berla. Il mio vero amore era mia figlia. Ma ora... ora non parla. Cosa faccio con tutto quest'oro se non riesco a vederla sorridere di nuovo? Ti prego, aiutami! Per favore, Dio, toglimi tutto il mio oro, porta via tutto! Ma dammi la mia amata Marigold! Ora capisco il mio errore, l'oro non può comprare tutta la felicità! Oh, Remida, hai imparato una verità preziosa della vita. L'oro non serve. Ciò che conta davvero è l'amore e l'affetto di chi ci circonda. Non muore mai, non appassisce mai. Prendi questo. Questa ampolla è piena di acqua magica. Cospargila con alcune gocce su tutto ciò che è diventato oro. L'acqua invertirà l'effetto del tuo tocco magico. Grazie, grazie Dio! Il re corse da sua figlia e spruzzò alcune gocce di acqua magica su di lei. Marigold respirava. Il re prese sua figlia e l'abbracciò teneramente. Padre, ma cosa è successo? Niente, figlia mia. Tornerà tutto come prima. Mida sparse l'acqua magica su tutto ciò che aveva trasformato in oro. Era così stanco di vedere l'oro che desiderava fortemente riposare sul suo letto. Si recò in giardino e con sua figlia cominciò a cospargere l'acqua su alberi, piante e fiori. Per la prima volta nella sua vita vide la bellezza della natura. Marigold, guarda! Quanto sono belli questi fiori! È una giornata così bella! Guarda come le gocce di rugiada brillano sull'erba! Sì, padre! Dopo aver trasformato tutto nella sua forma originaria, il re Mida si sedette con sua figlia e sua moglie al tavolo della colazione e mangiò abbondantemente tutto ciò che c'era. Mai prima da allora aveva assaggiato un cibo così delizioso. Si dissetò bicchiere dopo bicchiere, mentre la sua amata figlia e sua moglie lo guardavano divertite. Il re Mida non contò più l'oro depositato nelle sue segrete, ma trascorse il suo tempo con la sua famiglia. Gli piacevano le cose piccole e semplici che lo circondavano. Infine, lui divenne l'uomo più ricco e più felice della terra.